9 in punto. La versione di Oscar. Se la casa del tuo vicino, magari anche una casetta, solo una casetta, prende fuoco, ti conviene, se ce l'hai, ce l'abbiamo, dargli l'estintore. E credo che sia arrivato il momento in cui i paesi grandi dimostrano anche di essere grandi paesi e lungimiranti. Eccolo, lo avete riconosciuto nell'inedita veste di capo dei pompieri, il ministro dell'economia italiano Giulio Tremonti, alla sessione del Fondo Monetario Internazionale a Washington pochi giorni fa, lo scorso fine settimana. Il punto è la richiesta al governo tedesco, ad Angela Merkel, alla cancelliera tedesca, di non assecondare la rigidità con cui la stragrande maggioranza degli elettori del suo paese, l'86-90%, dicono i sondaggi sui quotidiani tedeschi in questi giorni, dicono alla politica tedesca, dicono alla Merkel no a un euro dalla tasca germanica per aiutare i paesi dell'euro che hanno fatto le cicale invece delle formiche, che hanno truccato per oltre 10-11 punti di PIL i numeri del deficit pubblico, come la Grecia, e che comunque non stanno messi bene, perché contro di loro ogni giorno in maniera crescente crescono le scommesse di insolvenza. Questo elenco di paesi che il mercato considera a rischio di insolvenza è fatto dalla Grecia in prima fila, ovviamente, ma se andiamo a vedere come in questi giorni cresce in maniera vorticosa giorno dopo giorno i CDS, cioè gli strumenti finanziari derivati con i quali sul mercato ci si assicura sui rischi di insolvenza, questa è una lista che oltre alla Grecia comprende subito dopo il Portogallo e subito dopo l'Irlanda e la Spagna. E che cosa avverrebbe se i tedeschi davvero avessero ragione? E cioè se questa restasse la linea fino al 9 maggio, che è la data in cui si vota in un land tedesco, quello del Nordrhein-Westfalia, e fino ad allora la politica tedesca difficilmente potrà non assecondare i suoi elettori. Io ricordo a chi ci ascolta che in Germania, a differenza che in Italia, dove per la nostra quota parte del doppio impegno che è stato sottoscritto e a cui il mercato non crede, di aiuto alla Grecia, a differenza dell'Italia dove questo aiuto si darebbe con un decreto legge, in Germania bisogna passare per il Parlamento, per il vincolo costituzionale che c'è in quel paese, e in Parlamento i liberali di Westerwelle sono contrari, la CSU, cioè l'alleata della CDU che sta in Baviera meridionale, ha espresso opinioni nei giorni scorsi in cui si diceva meglio che la Grecia esca dall'euro e vada in default se non è all'altezza di restarci. Ecco, la politica tedesca condiziona molto pesantemente l'euro, quell'euro di cui quando alcuni anni fa i miei maestri americani in Europa, sbeffeggiati come Milton Friedman, dissero: state attenti cari europei, perché se vi date una moneta unica senza unificare i mercati sottostanti scoprirete la prima grande crisi, l'effetto asimmetrico che ha un unico tasso di interesse. I paesi deboli, che si saranno avvalsi per anni dei bassi tassi di interesse della moneta comune, porteranno rapidamente alla crisi l'euro. È quello che sta accadendo? La mia risposta è netta: sì, è quello che sta accadendo. Allora faccio alcune domande che giro ai nostri interlocutori. Se fossimo greci, se fossimo tedeschi, se fossimo contribuenti tedeschi, se avessimo un'impresa in Germania, se questa fosse la radio della Confindustria tedesca, rispondetemi cari ascoltatori chiamando all'800 24 00 24. È vero o no che la penseremo anche noi come i tedeschi e diremo non un euro di tasca nostra per aiutare le cicale? Io penso di sì, che la penseremmo come i tedeschi e che non sarebbe sbagliato pensarla come i tedeschi. E poi, possiamo davvero stare al sicuro? È vero che se uno va a vedere gli andamenti dei CDS, gli andamenti degli spread sui titoli del debito pubblico, sui decennali, effettivamente, lo ricordo a tutti, l'Italia in questi giorni, in queste settimane, ha ragione Tremonti, grazie al deficit contenuto di Tremonti, si è tenuta al riparo dalla lista del grande rischio, che è quello che vi ho detto. Dopo il Portogallo sono, e la Grecia per prima, Portogallo, Irlanda, Spagna, i quattro paesi a rischio. Ma se la Grecia va in default, se davvero l'euro inizia a perdere un pezzo, davvero possiamo stare sicuri che la cosa non riguarda immediatamente dopo noi? Ecco, una serie di domande di questo tipo. C'è addirittura chi in Italia poi potrebbe essere favorevole a riprendere il corso della svalutazione monetaria e magari uscire dall'euro anche noi? Non lo so. Pongo queste domande esplicite e chiedo ai nostri ospiti di aiutarci a capire se davvero fino alle elezioni del 9 maggio in Germania noi possiamo correre il rischio serio che giorno dopo giorno il mercato, che ha una data contro cui puntare, possa arrivare a mandare prima la Grecia e poi gli altri fuori dall'euro. Ecco, per la prima parte della nostra trasmissione i nostri ospiti sono Tobias Piller, corrispondente della Frankfurter Allgemeine in Italia. Buongiorno Piller, grazie. Buongiorno. Buongiorno. E Adriana Cerretelli, strepitosa guida che sulle colonne del Sole 24 Ore ci aiuta da tanto tempo a capire al meglio i busillis, un po' bizantini a volte, di questa grande speranza che è l'Europa, che spesso un po' ci delude. Buongiorno Adriana Cerretelli. Buongiorno. Tobias Piller, allora, che cosa mi pare, la mia opinione è che difficilmente la Germania può votare e dare qualche cosa prima del 9 maggio, dicono anche i giornali internazionali. Regge il mercato fino ad allora e la Germania si può prendere la responsabilità di CDS e Spread Grech che ogni giorno vadano avanti al ritmo pazzesco di ieri. Ricordo che solo ieri i CDS greci sono peggiorati del 14% in una seduta. La Germania tiene duro? Cosa avviene secondo lei? In Germania il problema non è quello di essere tirchi e tirare fuori 8 miliardi di euro per aiutare la Grecia. Il problema è ancora molto più grave e questo è il peccato. Perché in Germania c'è una maggioranza di gente che dice chi salva la Grecia rovina a lungo termine l'euro. E allora non bisogna salvare la Grecia, ma salvare l'euro. E il pensiero è quello, quando adesso abbiamo già tante difficoltà e ci vorrebbe tanti soldi, fino a 100 miliardi di euro, di salvare la Grecia, dall'altro lato questo crea anche un effetto boomerang, perché potrebbe essere che altri paesi dicono, vabbè, tanto comunque quando sono in difficoltà qualcuno viene a mio soccorso. E poi ci sarebbero anche grandi paesi come il Portogallo, Spagna, altri, eventualmente pure l'Italia, che potrebbero pensare tanto basta spendere e poi qualcuno viene a mio soccorso. Questo certamente finirà con una moneta totalmente inflazionata e con un'Europa che a un certo punto non è più in grado a finanziare questi bisogni di aiuto. E in quel senso certamente i tedeschi si ricordano dell'inizio dell'Unione Monetaria, dove si è detto, vabbè, i tedeschi abdicano al loro marco, rinunciano anche al controllo di stabilità del loro marco, ma l'euro deve essere altrettanto stabile e per garantire questo tutti devono comportarsi in modo solido. E infine c'è anche una questione di giustizia, perché in Germania la pensione si avrà solo con 67 anni tra un po', e i greci adesso fanno le manifestazioni perché non vogliono che sia decurtata la loro pensione, vogliono ancora andare in pensione con 60 anni, hanno così trattamenti pensionistici anche da sogno per gli italiani, hanno aumentato il numero dei dipendenti pubblici e hanno sempre aumentato i stipendi dei dipendenti pubblici al doppio della inflazione per molti anni, e certamente i tedeschi dicono noi dovremmo allora andare in pensione con 70 anni per finanziare il greco che sta lì a guardare il mare da pensionato di 61, e questo certamente non va giù a molti tedeschi. Ti interrompo solo per dire che dall'altra parte i greci, che hanno votato a novembre scoprendo dopo il voto che c'era un governo uscente che gli aveva detto che il deficit del 2010 era meno del 4% e si scopre che 10 punti di PIL, sui sondaggi di stamattina dicono che al 70% anche loro sono contrari all'intervento di emergenza chiesto al Fondo Monetario, sono contrari ai tagli eccetera eccetera. Cioè diventa una gara tra chi, l'elettorato tedesco, di cui stai ricordando tu le legittime preoccupazioni dicendo l'euro deve essere una cosa nata per quelli che hanno la disciplina per starci. Dall'altra però, nei paesi a cui si chiedono interventi di una durezza inusitata che li porteranno in recessione e deflazione ancora più accentuata, le opinioni pubbliche che dicono ma noi dobbiamo tirare la cinghia perché le classi dirigenti hanno mentito, hanno sbagliato le previsioni, hanno fatto più deficit eccetera eccetera, è uno scontro per così dire tra la virtù da una parte ma anche diciamo la deflazione dall'altra, che morde soprattutto i ceti più popolari. Dal punto di vista tedesco comunque questa è una linea che si risolve dicendo la virtù a tutti i costi. Nella visione tedesca è così, che ci sono ancora nei racconti familiari tante storie di della svalutazione delle monete, così che i tedeschi hanno vissuto due volte, quando poi i soldi erano solo pezzettini di carta e nient'altro in più. Così i tedeschi pensano che ci voglia un sacrificio per avere una moneta che funziona, mentre certamente ci sono tanti politici intorno al mondo che dicono: vabbè, tanto è un modo indolore fare politica che piace a tutti, è politica populista a breve termine. Se io sfrutto tutto questo, che ci sono delle riserve di una moneta stabile, e lo faccio sempre più morbido, e mi salva per molti anni, e alla fine, a questa fine, poi forse non lo vedo più io. E questo ai tedeschi certamente non si può vendere come idea, e non si può vendere né prima né dopo il 9 maggio. Bene, quindi Tobias Piller ci dice: non contate che anche dopo il voto la posizione tedesca possa ammorbidirsi troppo. Adriana Cerretelli: la Merkel ieri è sembrata correggere energicamente molte prese di posizione ufficiali di partiti politici importanti nella coalizione, che indicavano alla Grecia la porta d'uscita. Ha detto: no, è impensabile, però i tempi, i modi, insomma, poi ci sono le eccezioni che abbiamo ricordato e le difficoltà, perché il mercato ogni volta che vede un'indecisione, cioè non vede formato con chiarezza, con credibilità il principio per cui si farà tutto il possibile per tenere l'euro così com'è per chiunque c'è entrato, il mercato scommette contro ed è diventata una cosa facile, cioè si guadagnano soldi molto facilmente scommettendo al ribasso per questi paesi. Dal punto di vista della tenuta vista da Bruxelles, Adriana, la situazione è grave, allarmante, ma non troppo davvero preoccupante, oppure i rischi di una di un crack serio dell'euro, prima un paese poi altri due o tre, tu li valuti ragionevolmente alti e considerevolmente attuabili? Ma io credo che paradossalmente in questo momento a mettere in croce l'euro sia più la Germania della Grecia, e la mia non è una provocazione. Nel senso che io trovo che in questo momento la Germania, pur fatte salve tutte le preoccupazioni di cui parlava il collega, che sono sacrosante, a me sembra che in questo momento la Germania non abbia una visione strategica, o perlomeno se ce l'ha è una, a quel punto è una visione strategica diversa da quella che è stata finora, cioè l'Europa. Io penso che quando Kohl ha deciso per la riunificazione il cambio del marco a 1-1 aveva contro non solo la Germania ma il mondo, ma ha guardato avanti. Io penso che il test greco aveva contro innanzitutto la Bundesbank, che tutti diciamo la grande istituzione, tutto il mondo, ma non solo la Bundesbank, aveva contro praticamente tutto il mondo. Io mi ricordo il G8 di Houston, se ne andò con le pive nel sacco e decise lui di andare in Russia per dire: io voglio la riunificazione e patteggio con i russi. Quindi voglio dire, ci sono dei momenti in cui i leader hanno il coraggio di certe scelte. Ora, io con questo non difendo la Grecia ha truccato i conti, la Grecia è fatta di tanti ladroni e di parassiti, è un paese balcanico, ha tutti i difetti che sappiamo, però la Grecia poteva essere controllata meglio, per esempio. La Grecia non è stata controllata anche quando Eurostat continuava a porre riserve sui dati che gli arrivavano, che le venivano notificate, e quando la Commissione proponeva un regolamento per aumentare i poteri di audit, perché oggi Eurostat non può andare in un paese a controllare i dati, ecco, quando fece questo nel 2004, quindi eravamo un po' prima di adesso, furono in primis i tedeschi a dire di no. Non solo, tutti sbagliano, anche quando i tedeschi diciamo sfondarono i parametri di Maastricht pensarono bene di cambiare il patto di stabilità invece che adeguarsi alle regole. Quindi diciamo che ognuno ha i propri scheletri negli armadi. È giusto preoccuparsi di un euro solido, perché questo è il nostro patrimonio e questo è il fulcro di una possibile nuova Europa. Ma il problema secondo me in questo momento è: ok, abbiamo imbarcato un paese che è così, questo paese vuole correggersi, ha un governo che vuole correggersi, ma nel momento in cui noi europei e comunque soprattutto i tedeschi diciamo: eh sì, ma questo non basta, ma quello non basta, ma io non ti do gli aiuti, ma aumento le condizioni, i mercati, cioè voglio dire, sono nel loro, non fanno altro che speculare contro. Voglio dire, paradossalmente, se i costi di questo problema aumentano è perché secondo me i tedeschi stanno facendo di tutto, perché ogni tanto io trovo che i tedeschi hanno tante virtù, ma si incaponiscono. Quando hanno deciso di fare l'euro, ben si sapeva che era un passo irreversibile, tant'è vero che il trattato non prevede la reversibilità di questo passo. Ora, la Grecia in sé è un problema minuscolo per l'euro, purché naturalmente non si vadano a provocare i mercati, perché in fondo è il 2,7% del PIL totale. Non ci dimentichiamo che il debito totale della Grecia è 300 miliardi, cioè è la metà di quanto i governi hanno dato alle banche per salvataggi, tra l'altro con mercati finanziari che sappiamo bene quale correttezza nei loro comportamenti hanno, che in confronto la Grecia mi sembra una bambina. Quindi voglio dire, la situazione secondo me non va, almeno come la vedo io, non va vista, sì però tu hai sbagliato, dunque devi pagare, eccetera eccetera. Certo che ha sbagliato, paga, si deve correggere, però qual è il nostro obiettivo strategico? Vogliamo salvarlo quest'euro? Vogliamo farla questa Europa? Secondo noi nel mondo globale è la nostra base per sopravvivere, per dire la nostra, eccetera, oppure pensiamo che dobbiamo prescindere dall'Europa e cercare un'altra visione strategica? Secondo me sono queste le domande, perché altrimenti, cioè, il problema greco ci soverchia, ma non ci può soverchiare, non ci deve soverchiare, perché è modesto. E allora naturalmente in questo scenario l'effetto contagio è automatico, perché naturalmente dopo aver attaccato la Grecia, guadagnato sulla Grecia, è chiaro che i mercati dice beh, adesso il Portogallo, adesso l'Irlanda, cioè, ma l'atteggiamento dei mercati secondo me dipende dal nostro. Insomma, voglio dire, qui si vede come al solito quello, tu citavi gli americani hanno perfettamente ragione, perché il comportamento europeo nei confronti di una crisi interna è un caso di scuola, è l'inettitudine europea, la sua miopia, la sua incapacità di ragionare europeo. Certo. Cioè, secondo me, io lo vedo così il problema. Bene, allora, la questione, come immaginavo, ha provocato una reazione dei nostri ascoltatori divisa esattamente a metà. C'è chi mi dà ragione e dice sì, anche noi se fossimo tedeschi ragioneremmo coi tedeschi, e cioè chiederemmo la linea che Tobias Spiller qui ha ricordato, la linea della serietà e del rigore, per la stessa ragione per cui nel nord siamo molto arrabbiati di fronte al fatto che ci sono gli sprechi nel sud e non finiscono mai. Un'altra metà dice attenzione, perché se esce un paese tutto il progetto dell'euro, tutto il faticoso procedere travagliato di più decenni verso la moneta comune salta ed è un passo indietro irreversibile. La Germania su questo sbaglia. C'è chi dice ma come, tu fai il volontario negli ospedali e poi dici che non bisogna dare una mano a chi sta in difficoltà? Sono due cose un po' diverse, vi faccio notare, però insomma la reazione è di una mela spaccata a metà. Vediamo due ascoltatori in breve. Amedeo da Bologna. Amedeo, ci ascolta? Sì, l'ascolto. Allora, la sua tesi, aiuti sì o aiuti no, rapidamente. Complimenti per la trasmissione. Io sono diviso anch'io a metà, nel senso che io penso che sia una grande sconfitta politica se noi non dovessimo sostenere la Grecia. Nel medio termine poi sarebbe anche un danno economico non indifferente, non nel breve ma sicuramente nel medio termine. Poi ci sarebbe una perdita di credibilità, perché se noi non abbiamo un gigante economico, ma abbiamo un nano politico. Pensiamo ad esempio a un parallelismo con gli Stati Uniti, dove sicuramente i fondamentali sono forse peggiori di quelli europei, ma dietro c'è una politica univoca che sostiene la moneta. Quindi lei dice che bisogna dargli gli aiuti? Secondo il mio punto di vista assoluta, cioè è una questione di mettere più rigore, di andare a mettere il naso nei loro conti, imporre un rigore che non sia eccessivo, che non li porti in una recessione irreversibile, ma sicuramente intervenire per la credibilità della casa comune, altrimenti noi perderemo di credibilità. Grazie Amedeo. Amedeo dice siamo molto rigoristi, però bisogna dargli una mano. Dice Gennaro da Napoli invece la stessa idea. Buongiorno, salve. Sì. Anch'io voglio fare i complimenti per la trasmissione. Io brevemente affronto il problema da un altro punto di vista. Secondo me noi, gli europei e il mondo, ha un obbligo morale verso la Grecia, nel senso che la Grecia in passato migliaia di anni fa ha dato tantissimo all'umanità, chiunque è andato a scuola lo sa. Ho capito, però sa, hanno detto che c'avevano un deficit al 3, ce l'hanno al 14, insomma. Ma noi quando parliamo del deficit non parliamo dei 20 milioni di abitanti della Grecia, parliamo di 10 persone che hanno mal governato. Sicuramente sono stati eletti dal popolo, eccetera, eccetera, però non è che adesso tutta la Grecia deve pagare. Se queste persone hanno sbagliato, pagheranno con le dovute conseguenze, magari anche penali. Però adesso non è che noi ci possiamo lavare le mani perché 10 persone hanno sbagliato e mandiamo sul lastrico la Grecia. Però ora, quindi anche Gennaro dice aiutiamo. La domanda, l'ultimo breve opinione che chiedo a Tobias Spiller, perché poi Adriana resta con noi. Ma ascoltatori, ma è davvero meglio, io che pur la penso come Adriana, ma è davvero meglio dire aiutare a qualunque costo? Oppure non è forse meno scandaloso e anche meno oneroso che chi non è all'altezza semplicemente fa default e quindi a quel punto con una moneta svalutata riduce il valore reale del debito accumulato e si rimette in regola con una svalutazione competitiva? Perdonate, Tobias Spiller come la pensa? È così tragicamente più una sconfitta o è forse anche un pochino più inevitabile una cosa di questo genere? Il mio giornale pensa che sarebbe anche molto salutare se, se la Grecia andasse in default, in quel caso ritrattare tutte le cose. Ci sono delle banche che prendono una perdita, ma il mio giornale dice noi non dobbiamo difendere Deutsche Bank, punto, fine. E così sarebbe posto fino molto salutare. Perché vedo il punto della collega che dice dove è la vostra politica pragmatica. Avrebbe costato meno se uno diceva quanto occorre e poi gli diamo subito i soldi, ma questo avrebbe creato quel meccanismo che si chiama la tentazione morale, moral hazard in inglese, che crea un sacco di rischi in futuro. In quel senso vedo certamente che la Merkel vuole salvare le cose in modo pragmatico e poi ci sono altri che dicono non lo fare per questioni di principio. E i greci, vorrei infine ricordare una cosa, che i tedeschi stessi spendono ogni anno, a seconda delle statistiche delle Nazioni Unite, 90 miliardi di dollari all'estero per viaggi. Se la Grecia vuole salvarsi con soldi tedeschi, forse potrebbe anche fare un qualcosa per essere più attraente per viaggiatori, per non farli tutti arrivare a Sharm el Sheikh, ma per farli tornare in Grecia. Grande Tobias, che ci dà argomenti concreti di che cosa viva la rigidità tedesca. E attenti a casa a non trascurare questi argomenti, perché non voglio sentire nessuno che manda qualche messaggio in cui fa riferimento i soliti tedeschi, quelli di un tempo. No, qui stiamo parlando della serietà di gente che ha dato un contributo essenziale a questo continente, che si è riunificata, che in 20 anni ha per più del 70% diminuito il gap tra est e ovest, mentre noi in 150 anni siamo fermi, non dico a 150 anni fa tra nord e sud, ma col cavolo che siamo riusciti a fare qualcosa di paragonabile, cioè gente seria e che sui soldi ha una tragica lezione del proprio passato di che cosa sia svalutazione, inflazione, mancanza di rigore e di coerenza nei conti pubblici, perché quel peso lo ha pagato e lo ha poi imposto a un intero continente e dice mai più, e per questo è nata l'Europa insieme ai francesi e ai paesi del Benelux e anche all'Italia, di cui l'euro è uno sviluppo, ma uno sviluppo. 9.36, siamo tornati in studio, ci stiamo occupando del no tedesco, sia pur temperato da una garanzia ieri espressa dal cancelliere Merkel che dice no, la Grecia non può uscire, però insomma la politica tedesca dice noi siamo molto molto prudenti prima di mettere davvero mano al portafoglio. Si vota, c'è una data contro cui scommette il mercato, perché si vota nel land del Nordrhein-Westfalia 9 maggio, prima dell'ora difficile che la Germania possa mettere la propria quota a parte di denaro che nei due impegni sottoscritti in Europa a favore della Grecia come degli altri paesi deboli sono stati assunti, ma a cui il mercato non crede, e abbiamo capito il perché. È giusto, anche comprensibile, che non creda. Allora facciamo un focus un secondo sull'Italia. In questi giorni è stato evidente che la graduatoria dei paesi a rischio più esposti al contagio, ci sono due modi per vederla: quanto salgono i punti dei CDS, gli strumenti finanziari con cui ci si mette in garanzia sul rischio di default di un paese. Ieri i CDS sui titoli greci pubblici sono saliti a un massimo di 713 punti, che significa che per un euro di debito pubblico in scadenza ci si chiede un'assicurazione di 0,7 euro. Questo, pensate quindi quanto è elevata la possibilità di default a cui è arrivato il mercato per i titoli pubblici. Poi subito dopo, sotto questi 713 punti dei CDS greci, c'è il Portogallo che ieri era salito a 318 punti, l'Irlanda a 200 punti, la Spagna a 184 punti, l'Italia molto molto più in basso, 130 punti. Poi la seconda modalità per misurare la febbre di un paese è quella dei decennali, dei tassi di interesse, sui titoli pubblici decennali. Anche lì la graduatoria è quella, con la gravità proporzionale che vi ho detto. Anche lì l'Italia è molto molto più solidamente lontana torna dal focus del rischio crisi. E ieri, per un pezzo che ho scritto oggi sul Messaggero, ho ricalcolato tra l'altro qual è uno dei criteri per cui è giusto che il mercato valuti prima di esprimere questi giudizi sui CDS e sui titoli che devono, sui tassi di interesse che devono pagare i titoli del debito pubblico, perché il mercato giustamente considera non solo l'espressione in punti di PIL del debito pubblico di un paese, ma considera anche il totale della forza economica di un paese e per esempio il totale dell'indebitamento netto estero, sia nella componente pubblica ma anche in quella privata dell'economia. Allora, mi sono rifatto un po' di conti e se non ho commesso errori troppo marchiani, perché li ho fatti un po' in fretta, per questo abbiamo un esperto con noi molto più bravo di me, pensate che per esempio la Grecia ha un debito estero netto nella componente pubblica e privata che è pari al 104% del suo PIL, il Portogallo lo ha addirittura al 122%, nel caso della Spagna si sta a un 65%, ma l'Italia, a differenza di quanto molti di noi sono abituati a credere, se sommiamo le componenti finanziarie in entrata in uscita nell'ultimo decennio, pubbliche e private, ha un risultato record, ma positivo, perché in quel caso il debito netto estero italiano è solo dell'8% del nostro PIL rispetto al 122% del Portogallo, al 65% spagnolo. E se andiamo a vedere l'export, mi sono rifatto i conti anche su quello, il totale del debito netto estero di paesi come la Grecia è 5 anni di esportazioni greche, quello portoghese 4 anni di esportazioni portoghesi, quello spagnolo 2 anni e mezzo di esportazione spagnola. Nel caso italiano, il solo export italiano del 2009, pur anno pesante di forte restrizione, quel solo export vale più della metà di tutto il nostro debito estero. Questo significa che noi abbiamo una forza rispetto a quella degli altri paesi, nella quale poi giustamente il mercato crede quando dà degli spread significativamente più bassi, nel nostro caso dei titoli decennali del debito pubblico, e quando i nostri CDS restano più bassi. Però la domanda da fare è: se è vero questo, non è che per caso la Germania, nel dire gli argomenti di Piller, gioca, diciamo così, in nome per conto del proprio interesse, primo paese manifatturiero, primo paese esportatore, che dice dell'euro forse ho meno bisogno di un tempo, voglio salvare i paesi in cui è delocalizzato, e in definitiva è proprio l'Italia il mio grande concorrente? Ecco, questa è la domanda che io faccio a Marco Fortis, vicepresidente della Fondazione Edison, che ci ha raggiunti a telefono. Buongiorno Fortis. Per chiedergli un pochino, da questa vicenda dell'euro, noi come secondo paese manifatturiero ed esportatore, che cosa abbiamo da temere dell'atteggiamento tedesco e che cosa abbiamo invece da guadagnare, per così dire, dalla linea del rigore? Qual è la sua opinione? Ma io credo che quello che abbiamo da perdere di questo atteggiamento tedesco è soprattutto il fatto che non aiuta il consolidamento del grande progetto europeo. Sembra essere cioè una visione estremamente di breve periodo, legata anche alle vicende elettorali di cui lei parlava prima, ma non credo che contribuisca molto al rafforzamento del progetto europeo, che credo sia l'unica grande opzione per il nostro continente se vuole continuare a competere in uno scenario globale in cui ci sono degli attori grandissimi che si sono affacciati come i paesi emergenti. Quindi non credo che ci sia un disegno specifico per guadagnare competitività. Qualcuno ha immaginato che i tedeschi stiano anche giocando per favorire un ribasso dell'euro e quindi favorire le proprie esportazioni, ma la Germania in realtà non ha niente da guadagnare da una segmentazione del mercato europeo. E oltretutto il presidente della Confindustria tedesca si è espresso chiaramente dicendo che un'uscita dall'euro, un fallimento del progetto dell'euro oggi non avrebbe senso, non si può ritornare alle vecchie monete. Da questo punto di vista posso chiedere, c'è chi sostiene, Marco Fortis, per esempio il professor Paolo Savona eccetera, che l'Italia, la BCE perdoni, dovrebbe fare un po' come stanno facendo i cinesi, cioè dovrebbe comprare dollari, quindi in questo rivalutare il dollaro sul mercato, e ne guadagnerebbe complessivamente in competitività e in solidità anche al proprio interno, ma in competitività sui mercati internazionali, impedendo una concorrenza impropria dal punto di vista valutario. Che cosa si può fare di più perché l'export, che è un fattore così importante della nostra tenuta, della nostra crescita, abbia all'interno degli strumenti della politica monetaria europea sui mercati qualche cosa che fino a questo momento si è visto poco? Può fare di più l'Europa anche per la competitività, al di là dei fattori interni, dell'export italiano? Quello che poteva di fare fare di più l'Europa per diciamo tutelare meglio i nostri settori produttivi, negli anni passati non l'ha fatto, cioè mi riferisco soprattutto a una migliore tutela dalla concorrenza asimmetrica asiatica delle produzioni tradizionali, che ormai hanno perso tutto quello che dovevano perdere nel confronto competitivo con i cinesi, quindi siamo rimasti solo nei prodotti di fascia medio e medio alta, in settori come il mobile, come le calzature, come il tessile abbigliamento. Viceversa siamo cresciuti molto nella meccanica, dove la concorrenza cinese è meno avvertita, e sotto questo profilo la Germania e l'Italia hanno dimostrato che anche con un euro fortissimo le loro esportazioni andavano benissimo prima che scoppiasse l'attuale crisi. In questo momento quindi non abbiamo in realtà un problema di guadagnare in competitività attraverso il cambio, perché le produzioni meccaniche in cui siamo specializzati riescono a reggere benissimo la concorrenza dei paesi emergenti anche in presenza di un euro forte. Il vero problema è che in questo momento non c'è domanda mondiale, perché c'è una crisi gravissima della domanda nei paesi più ricchi, e anche la stessa Cina sta facendo una crescita soprattutto interna, con importazioni tutto sommato relativamente ridotte di tecnologie occidentali, come possono essere macchinari, attrezzature, che certamente vanno bene, ma non come potrebbero andare se i cinesi avessero uno sviluppo interno più basato sui consumi. Grazie al professor Marco Fortis. Io questi inserimenti di argomenti un po' tecnici sull'export italiano ci tengo sempre molto a farli, perché è la componente essenziale della crescita del nostro paese, della caratteristica del nostro modello produttivo, ed è su questo che bisogna riflettere. Secondo me ha torto chi in questi giorni accusa il professor Fortis di insistere troppo su questi argomenti, e il dibattito pubblico sul declino o non declino che ha aperto sono solamente 24 ore, che lo anima e fa benissimo ad animarlo presentandolo ai suoi lettori, ma è un po' anche il tono di fondo del dibattito economico del nostro paese. 9.47, torniamo rapidamente alla questione di fondo, sia gli aiuti, no agli aiuti. È giusto salvare anche chi ha cicaleggiato o truccato sui conti, perché se esce qualcuno dall'euro a catena è finito il progetto ed escono tutti, oppure no, o è il rigore invece. L'unica strada per salvare, come dicono i tedeschi, il significato stesso dell'euro e il futuro di un progetto politico che è ancora incompiuto, questo è l'interrogativo. Sentiamo Antonio Ferrara, editorialista del Corriere della Sera, beato per anni ad Atene, che conosce bene la situazione greca, la situazione di questi giorni, dei nuovi scioperi, delle proteste, dal suo punto di vista come evolverà. La Grecia ha capito la lezione ed è pronta a fare questa cosa che in realtà è terribile, che potrebbe avere ripercussioni rispetto al peso dell'economia pubblica in quel paese, di terribile restrizione alla crescita, oppure no, secondo te? Ma secondo me sta cominciando a capirlo, e forse lo ha capito, in molti settori lo ha capito molto bene. Ecco, direi che negli ultimi giorni questo stop and go, perché la Grecia è un paese molto emotivo, come si sa, però anche, devo dire, dall'Europa non sono arrivati dei segnali molto chiari, un giorno segnali positivi, il giorno dopo negativi, insomma si è andata avanti su questa altalena così da otto volante, direi abbastanza frustrante per la popolazione. Ecco, l'elemento che è venuto fuori proprio da un sondaggio uscito ieri, pubblicato ieri, è un elemento doppio, innanzitutto una crescente insicurezza, la gente comincia ad avere paura, ma comincia ad avere paura anche chi ha del denaro e non lo spende, per esempio c'è qualche timore che se la situazione dovesse continuare con questo stop and go così frenetico, si possa arrivare anche a delle decisioni assolutamente impopolari, come quella per esempio di un prelievo forzoso sui conti bancari. Ecco perché da parte di molti c'è una certa corsa, per il momento ancora limitata, ma comunque corsa all'accaparamento e anche al cercare di ritirare quello che si può ritirare dalla banca. In alcuni settori questo è accaduto. Dall'altra invece abbiamo, e questo è interessante, anche la tenuta del partito di governo, che è poi quello che dovrà gestire la politica dei sacrifici, la tenuta notevole nei confronti dell'opposizione. E, diciamo, il vantaggio, nonostante tutto quello che sta accadendo, è di circa 6 punti percentuali. Ma l'opposizione Commissione è quella che ha mentito sui conti precedenti e poi ha perso le elezioni. Quindi... Assolutamente sì, però il governo oggi ha bisogno di questa opposizione di centrodestra proprio per far passare a livello maggioritario nell'opinione pubblica la politica dei sacrifici. Contro sono rimasti il Partito Comunista, che in Grecia è piuttosto stalinista, il QQE e altre piccole formazioni. Quindi è chiaro che oggi anche il governo attuale, pur avendo criticato quello precedente di centrodestra, dice: beh, però a questo punto dobbiamo stare insieme, dobbiamo unirci e dobbiamo partecipare tutti insieme a questa politica di sacrifici. Quindi è chiaro che il sostegno del centrodestra in qualche misura è essenziale. E poi abbiamo gli scioperi. Oggi per esempio sono in sciopero i servizi pubblici, i metro, tram, autobus, eccetera. Poi ci saranno scioperi in altri settori. È chiaro che il rifiuto per esempio del Partito Comunista QQE di qualsiasi rapporto con gli inviati del Fondo Monetario e dell'Unione Europea è anche un fa da prologo a tutta una certa serie di iniziative di scioperi, iniziative sindacali che coinvolgeranno non soltanto il settore pubblico ma anche il settore privato. Bene, ora torniamo alla voce degli ascoltatori sulla domanda che abbiamo posto: hanno ragione i tedeschi, hanno torto i tedeschi? Sentiamo ancora alcuni di loro come la pensano. Cominciamo con Fabio, Fabio che chiama da Roma. Come la pensa lei, Fabio? Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Ma io sono stra d'accordo con l'atteggiamento dei tedeschi, perché comunque loro hanno fatto tantissimi sacrifici anche negli anni passati per mantenere in ordine sia i conti pubblici e anche per rendere competitiva la loro industria. Però io volevo anche sottolineare il fatto che l'allegria finanziaria, diciamo così, dei paesi periferici ha fatto comodo all'industria tedesca per esportare le automobili e quindi in qualche modo un minimo di riconoscenza forse dovrebbe anche esserci. E poi ecco, non sono d'accordo con chi appunto parla di frammentazione dei mercati, quindi i tedeschi non sono così interessati ad una svalutazione della moneta. Io credo che in Germania sappiano benissimo che nei prossimi anni i paesi periferici non potranno più consumare come hanno consumato negli anni passati e quindi hanno necessità di ribilanciare fortemente le loro esportazioni verso i paesi emergenti. Infatti, questa è un'altra componente che però ci fa andare di nuovo sul tecnico. Qui la questione è dare una mano a chi non è in regola, perché questo è l'euro anche, cioè solidarietà per andare avanti comune, posizione Adriana Cerreteri, progetto politico, e quindi i tedeschi su questo sono ingenerosi e forse espongono l'euro, l'Europa a un grosso problema, oppure no, solo il rigore è ciò che serve per dare credibilità agli impegni comuni. Chi lo dichiara e poi non lo mantiene, è giusto che su quello si pigli le sue responsabilità, compresa la conseguenza, tutto sommato, ogni tanto fare un default come un'azienda privata e una banca è meglio che ogni tanto fallisca invece che tutti sperino sui denari pubblici del contribuente, idem per i paesi. Ci ha chiamato Nichena dalla provincia di Modena, un nome un po' strano. Nichena, ma lei di che paese è in realtà? Nichenas, quindi è greca, ho capito bene, insomma. Sì, scusi. Volevo dire anche a quel signore che ha parlato prima, sì, che non si ricordano forse che come vive la gente in Grecia, al di là di dei ricchi che oltretutto naturalmente fanno la corsa ad andare a ritirare i soldi in banca. Certo. Ecco, va bene. E quindi lei difende il fatto che i greci incolpevoli adesso gli si presenta a loro il conto, i tedeschi su questo sono un po' ingenerosi, insomma. Fatto delle cavolate, la colpa non è stata dei greci ma del greco, è chiaro, e del suo entourage, quindi io non lo so. Inoltre i tedeschi non fosse altro che per un debito di riconoscenza con tutto quello che hanno combinato in Grecia, guardi, io ho soltanto 8 anni sì. Per cui so bene, perché in tempo di guerra io c'ero. Certo. Ecco. E quindi lei dice: non dimentichiamoci la storia e le pesanti responsabilità di un passato che in definitiva non è poi passato da troppo, quindi i tedeschi ci pensino bene prima di essere così tosti nei confronti di paesi verso cui le loro truppe, insomma, hanno commesso anche degli atti e atrocità che è giusto ricordare. Grazie a Nichenas. Ancora Giorgio dalla provincia di Milano, rapido, lei che pensa? Tedeschi sì, tedeschi no? Ah, io sono fondamentalmente fondamentalmente d'accordo con i tedeschi, la penso come i tedeschi. Loro insegnano con l'unificazione delle due Germanie, dato che con una politica economica seria e una classe politica seria, altrettanto seria, si può, come si può dire, risanare i debiti pubblici, mandare avanti l'educazione nella maniera corretta. E poi c'è il discorso che ho il dubbio che tutto questo gran vociare aiutiamo la Grecia, possa voler dire che c'è qualcun altro che voglia sfruttare il precedente. Nel senso, creiamo un precedente con la Grecia e poi nel momento in cui ne abbiamo bisogno, allora... Grazie, in effetti gli altri paesi a rischio nella graduatoria del rischio ci sono e li abbiamo detti. Adriana Ciarretelli, sei sorpresa o meno che se uno apre i microfoni gli italiani oggi tendono in netta maggioranza, almeno gli ascoltatori di Radio 24, si vede anche dai messaggi oltre che nelle telefonate, tendono a dare ai tedeschi ragione? Cos'è? Ci sentiamo improvvisamente dalla parte del rigore? È vero, abbiamo fatto meno deficit, ma insomma abbiamo un bel debituccio pubblico. Oppure siamo consapevoli del fatto che, siccome tante volte abbiamo dovuto pagare per i nostri errori, è meglio che paghino anche gli altri, dimenticando però che l'Europa è nata anche per darci una mano. Tu che la pensi? Che ne pensi di questa reazione degli italiani? Io penso che le risposte non mi sorprendono. Primo, perché il sentimento europeista è in discesa dovunque. Hai ragione. E quindi questo mi sembra che sia un termometro piuttosto chiaro. Secondo, penso che la cultura tedesca, di cui tanto i tedeschi si preoccupano, ha fatto strada in Europa. Basta vedere l'atteggiamento della Francia, non ci dimentichiamo, la Francia faceva parte del famoso famigerato Club Med, di cui l'Italia appunto era capofila ai tempi dell'ingresso nell'Unione Monetaria. Quindi no, siamo diventati tutti un po' più tedeschi. Sicuramente siamo diventati un po' più tedeschi. La domanda è, appunto, proprio per questo è giusto che i tedeschi continuino a comportarsi in questo modo, anche perché gli ascoltatori dicono bene, la Grecia deve raddrizzarsi, i tedeschi non è giusto che paghino per i paesi viziosi, eccetera. Però non ci dimentichiamo che quest'anno i greci faranno una correzione del deficit del 4%. Di 4 punti percentuali, voglio dire. Noi gli abbiamo chiesto poco, dici tu. Questo io mi sembra che Adriana Ciarretelli continui a essere molto ragionevole nel mettere insieme la linea del rigore e la linea del possibile. D'altra parte c'è il cantismo puro, cioè ognuno faccia quel che deve e accada quel che può. Su quel che può accadere, temo che l'Italia si illuda un po' troppo di essere al sicuro. Questa è la mia conclusione di oggi, alla scoperta di un'Italia più tedesca di quanto avremmo immaginato. Spero di vederla davvero tutta questa efficienza tedesca, anche nelle riforme, diciamo, per l'economia e con meno tasse italiane tra poche. Ma questo è un altro paio di maniche. Appuntamento a domani come al solito. Grazie regia Pietro Lacorte, in redazione Alessandro Marco Tulli, la linea al Giornale Radio.